di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Beh, se voi potete notare, questa è la fiera, il salone nautico. Se voi vedete, allora qui è questo qui è il nuovo stadio. Nuovo stadio che non vedremo mai. Allora, ma perché devi essere così negativo? Ma non lo vedremo mai! Dai, siamo al Salone Nautico di Genova. Oggi ho voglia di parlare solo di calcio genovese. Io vorrei solo andare in barca oggi. Gommone, zattera, gozzo. Ma una cosa già da meravigliosa. Sole. Devo denunciare al telefono azzurro un brutto episodio, cioè Genta che ha schiavizzato il figlio, l'ha tenuto 40 minuti in fila per prendere la focaccia che è arrivata! Grande, il piccolo Genta, come si chiama? Alessandro Genta, ti ringrazio perché ho mangiato grazie a te. Ecco, adesso ride. Ecco qua. Ah, pure lui mangia la focaccia? Vabbè, allora focaccia, sei un papà democratico, cioè gli consente di mangiare la focaccia per la quale ha fatto gli abbiamo dato i soldi noi. Comunque, questo è vero. Questo comunque, 80024. Ben 20 euro in due, ma il resto ce l'ha portato. 24. Sarà no, stato non lo so, ce l'ha portato. Ce l'ha portato il resto, non, so, non si scherza a me che sono palanche 20 euro. Quanta focaccia hai portato? Qui questi allora non mangiano, Piantarida non mangia, il signor Scaltritti. Scaltritti dov'è? Appunto, no, c'è Michele Previato, ma lo so. No, ma allora andiamo per ordine. Compleanno di Radio 24 domani a tutti quelli che chiameranno e che verranno passati nel nostro programma la maglietta di Radio 24. Questo ok. Che è un cult. E questo una maglietta con scritto sopra Radio 24. Sa va a dire. Pierluigi Pardo oggi qui con me, ma poi allora fa le tue presentazioni che sei bravo, sei un presentatore conosciuto, allora, anchorman. Per quale squadra oltre al Sassuolo noi facciamo il tifo da sempre? Piantanida. Ma tu puoi parlare o no? Urlo. No, alla cuffia. Urlo. Che per quale squadra facciamo il tifo, Piantanida? Da sempre. Lentella e il Sassuolo. Ah. No, ma prima no, vabbè, sì. Prima il Sassuolo. Prima il Sassuolo. Secondo po' in A il Sassuolo, in B Lentella. Speriamo che Lentella possa salire per un grande derby fra qualche anno in Champions League. Lentella Sassuolo. E l'obiettivo è questo, è la Serie A. Buonasera. No, non ce la facciamo. Matteo Matteazzi, direttore, generale dell'Entella. Tre anni in Serie B, poi si sale. Anche perché non sappiamo dove andare a giocare. Quindi. Se si sale, si vendono i diritti, no? No, non lo facciamo, presidente, non lo farei. E allora si zottano le partite alla fine dell'anno. Cosa? Magari fai il passo. Chiudete questo programma, chiudete al quarto minuto. Già c'è l'ufficio indagini. Ovviamente non si pezzottano le partite, non scherziamo. C'è anche Timossi, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Timossi, che per chi ci sta seguendo in streaming, siamo in streaming? No. Siamo in streaming. Qualcuno non lo so. Sì, quindi si può inquadrare? No, non c'è il video. Timossi è uguale Gregori. È uno dei miei. Mamma, chissà se valeva la pena fare tanta strada e arrivare qua. La gente è la solita, non cambia la scena, la stessa che ho incontrato tanto tempo. Ma vedi, alla fine De Gregori Timossi è uno dei miei semplice pop. Tu lo sai. C'è una serie di fotografi che salutiamo, che bello essere qui. No, Mino Taveri, vieni subito, Mino Taveri con le corna. Mino Taveri, ma c'è anche l'amante di Mino Taveri. Mino Taveri, con quel narcotrafficante. Sto scherzando, dovete Mino Taveri da solo, è venuto a tenere barche perché è uomo di mare come noi. Tra l'altro, no? Perché non è venuto? No, lo sai perché è timido, cioè, l'uomo di mare è timido. Tra l'altro Taveri è velista. Allora, sì. Chiaramente il mondo della nautica si divide in motoristi e velisti, no? Velisti. Tu sei? Nessuno dei due. Tutti mossi? Ma io sono velista. No, io mi faccio portare in barca alla chi capita. Esatto. Vogliamo rinnovare l'invito, se volete siamo se qui. Se avete una barca a disposizione. Noi dalle 4 siamo liberi. 16 finiamo, chiudiamo. Andiamo rapidamente a Portofino, facciamo un bagnetto e torniamo. Vabbè. Ma non parliamo tutti così noi genovesi. Beh, smettila. Fra poco arriva anche un grande genovese Bizzarri che dice che parlo genovese meglio di lui, fra l'altro. Quindi, Dopo interviene anche lui, no? Interviene. Forse arriva, forse telefona. Forse arriva. Poi avremo Ferrero e Preziosi, diciamo cosa fa Roberto Mancini, Branco, sì. Poi avremo partiamo, prego Genta. Traffico? Beh, non ti piace? Sì. No, di cosa poi oggi parleremo naturalmente della grande Roma. Juve-Roma, no, aspetta, prima della grande euforia che ormai è dilagante delle squadre e delle squadre italiane in Europa. Stiamo dominando largamente prevista, il vecchio continente. Che ho detto ieri. Bravo, largamente prevista, 4-0 sull'Europa in Europa League. vinceremo, credo, l'Europa League, probabilmente anche la Champions League. Penso tutte e due. Penso tutte e due, doppietta. La prossima Supercoppa europea sarà fra due squadre italiane, non dico quali perché sennò può succedere il Maracanã. Quindi fra due squadre italiane come a risico, no? È un terzo continente a piacere. Tra due squadre italiane a piacere, ecco, scegliete voi quali. Senti, meglio il traffico, va. Vai. Ascolta me. Fate le tue risate, li vedete tutti seri. Tutti convocati. Osvaldo, c'è lo spazio per l'Inter, palla sotto, verso Icardi, è buona l'idea, va dentro Osvaldo, ancora Icardi, col destro! Non era facile oggi giocare, ragazzi hanno fatto secondo me una partita attenta, difficile, una squadra tosta che correva, che non aveva nulla da perdere dopo il 4-1 subito tre giorni fa, anche psicologicamente non era facile non giocare in questo stadio, e devo soprattutto, ci tengo molto a ringraziare la curva che è stata eccezionale, che ha sostenuto i nostri giocatori dal primo all'ultimo minuto, e credo che in questo momento ne avevano bisogno, e ringrazio davvero la curva. Yeah. Con questi lanci profondi per Hamsik, che va a deviare e a trovare il gol dell'ex Napoli in vantaggio, con Marek Hamsik al 35esimo la risolve l'uomo di casa. Prestazioni di inizio stagione per me sono stati ottimi, però ho mancato gol, e quello è arrivato oggi e sono contento per questo. Sono tornato a casa mia davanti a mia gente, davanti ai miei amici, allora ci tenevo a fare bene, è andata così come speravo. Abbiamo vinto e abbiamo continuato, che oggi non abbiamo subito gol, è importante per la nostra squadra, per la nostra fiducia. L'importante sarà dimostrarlo anche domenica, che ci aspetta durante partita molto difficile, e ci dobbiamo già da domani concentrare su quello. Contenuta di Ventura per questo rigore al 93esimo. Spagliarella sotto la maratona, come contro il Bromma Poicarna, non sbaglia e mette palla in rete. Il Torino vince 1-0. Un rigore che ricorderò ben volentieri, perché è il primo in Europa dopo 20 anni con la maglia del Toro, e quindi l'ho fatto io sotto la maratona, quindi è una gran bella soddisfazione. Quanto riguarda la nazionale, io è normale che ci speri sempre, ecco, come tutti gli attaccanti, quindi la concorrenza è spietata, ma è giusto che sia così. Poi no, dall'altra parte no, ripeto, ho fatto 4 anni stupendi, ma adesso ho la maglia del Toro e cerco di dare soddisfazioni a questa società, a questi tifosi che mi hanno voluto tutti i costi. Yeah. In zona Bernardeschi, il pallone per lui, Bernardeschi davanti Gnatovic, arriva anche il secondo gol in Europa League di Bernardeschi, 3-0. Noi oggi era importantissimo vincere, ci siamo riusciti attraverso una buonissima prestazione, anche se ci siamo impegnati per farci far gol, non ci siamo riusciti, ma era importante vincere per consolidare il primo posto. Un trionfo assoluto, 4 sì, su 4. Sì, devo dire che insomma hanno preso, soltanto la mia partita non hanno preso la mia telecronaca, lo considero un fatto grave, sul quale stanno già indagando i miei regali. Vogliamo ricordare l'hashtag auguri Radio 24, la Ligios che mi ha detto salutaci, salutami, e qua ognuno è la Ligios di Radio 24, lo so. La Ligios, salutiamo. Utilizzo privato del mezzo. Salutiamo tutti. Tutti, tutto il marketing, tutto il marketing. No, signor Cruciani. Volevo sentire da Giampiero Timossi e da Matteo Matteazzi, che è direttore generale dell'Entella, un commento sulla rinascita, la resurrezione totale del calcio italiano. Siamo partiti sì. Siamo nella grande depressione, sì, e allora o gli altri sono sfigati oppure non, neanche... non siamo così deboli. Però non bisogna neanche cedere, no, non bisogna cedere. È stato un turno di Europa lì favorevole, un po' meno quello di Champions, però, perché la Roma grandissima, grandissimo gol di Totti, sì. La Juventus mi sembra che però abbia mostrato, la Juventus e l'Inter abbiamo mostrato tutte le difficoltà che aveva la Juventus sul, sì, conto. Quindi, sai, ieri, abbiamo... ieri c'è stato il tiro. Perdi 1-0 con l'episodio a Madrid, perdi 1-0 però perdi alla fine, capito? E allora vale il risultato, allora fate il risultato 2-0 col Malmo, no, lui avrebbe vinto duramente. Io parto ieri su questo punto, per me, per la Juventus una chiara occasione buttata, cioè è stato un risultato negativo. È stato un risultato negativo, io credo che non abbia neanche espresso un gioco particolarmente brillante. Ma è in casa dell'Atletico Madrid, ho capito. Hai fatto gara pari in casa dell'Atletico Madrid. Io credo non le magliette neanche gli estratti conto. In questo momento la Juventus doveva fare il risultato in casa del Madrid. Sicuramente non ha dimostrato la Juventus di avere qualcosa in più rispetto all'altra stagione. E non ancora, Pardo, dai. Ancora Pardo. Io credo che a livello medio riusciamo a far valere ancora certe nostre caratteristiche, certe capacità, poi quando il livello si alza faremo ancora fatica secondo me. Io penso, dico una cosa volante, che è chiaro che le 9 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta delle 12 italiane, il miglior quoziente, siamo primi quest'anno momentaneamente nel ranking UEFA, è dovuto al fatto che abbiamo 4 squadre in Europa League, quindi il livello di difficoltà si è abbassato. Però è vero pure che l'Europa League gli anni scorsi la giocavamo malissimo, la giocavamo proprio col piede sinistro, la giocavamo senza entusiasmo e senza risultati. Io insomma non erano così scontate secondo me queste 7 vittorie e un pareggio delle italiane in Europa League. Però è vero che ormai l'otto scudetto è già una questione. Questo potrebbe aiutare. Forse possono puntare. Anche perché quest'anno l'Europa League dà un posto in la vincitrice prende un posto in Champions, quindi insomma penso al Napoli e all'Inter. Ma giocherai duro l'Europa League, cioè primo obiettivo stagionale Europa League, che poi è chiaro che giocare avere come obiettivo stagionale una coppa internazionale è una follia totale, che sbagli una partita, vai a casa. Non è plausibile, però fossi nell'Inter e nel Napoli giocherei con tutte le mie forze, con tutti i miei migliori giocatori d'Europa League. Anche perché adesso 3 su 4 sono praticamente quasi qualificate, quindi potranno fare un po' di turnover, potranno gestirla con maggiore serenità. È esattamente quello che bisogna fare, quindi complimenti, perché insomma se non fai troppo turnover subito, poi metti il girone in discesa e hai la possibilità di gestire la situazione con grande calma. Se invece vai in affanno, poi sei costretto a... È come chi più spende meno spende. Un po' sì, diciamo che Torino, bella Torino e Inter hanno approfittato anche della partita infrasettimanale per risolvere qualche problema che si trascinavano al campionato, sì. Quindi era logico che dessero qualcosa in più in queste partite di Coppa. Senti, ma tu come ti sei spiegato, come riesci poi a spiegarti la partita di domenica dell'Inter? Poi abbiamo sentito Mazzarri che ha elogiato tutto il mondo, no? I tifosi, pubblico, tutti vicini, il pubblico, la mia mamma e mio papà, e grazie ad Ambrosio che ha segnato, e Cardi pure, la focaccia, Vanda Nara e tutti quanti, ha elogiato tutti. È stato molto, molto dolce Mazzarri, era in un momento però difficile. Hai un'idea su... Ti sei fatto un'idea sulla partita dell'Inter? Io credo che una partita all'anno in casa così possa capitare. Può capitare che va tutto storto, può capitare che la prepari male, ci sia qualche defezione, qualche problema, rimani in 10, sì. Può succedere. Però, una... Dico, la Juventus e la Roma non ce deve prendere 4 fischi, sì, da Cagliari. E in quel momento lì di difficoltà viene fuori la forza. C'è l'eco, come in Piazza San Pietro. Come Piazza San Pietro, etro. È da Milano. Subito abbiamo scaricato, i nostri tecnici qui subito hanno scaricato le colpe su Milano. Non è colpa nostra, non è un complotto, sono altre frequenze. Sono i poteri forti. Ecco. Sì, il dato preoccupante è che una partita del genere la puoi perdere 2-1, 4-1, fai una figuraccia, e vuol dire che qualche problema ce l'hai. Giampiero? Però insomma è vero che puoi perdere la 2-1, però è anche vero che se trovi a giocare in 10 contro una squadra che entra in campo come il Cagliari di Zeman con l'obiettivo di fare tanti gol, e alla fine forse anche questo elemento può avere in qualche modo influenzato il risultato finale. Se la vedi la Juventus, però non mi vedo assolutamente la Juventus perde una partita in quel modo, ma perché la Roma non va in barca per un quarto d'ora così una squadra come la Juventus? Evidentemente ancora giocatori giovani, sicuramente quest'anno Mazzarri non ha più alibi, l'anno scorso ne ha avuti parecchi, non ci ha mai detto, non ha mai raccontato fino alla fine qual era l'obiettivo reale di questa squadra. C'era stato comunque il passaggio di proprietà, anche se era annunciato da tanto tempo, però era stato un passaggio, e Mazzarri soffre tantissimo, l'ha dimostrato in tutta la sua carriera, l'ha dimostrato iniziando qui ad esempio alla Sampdoria, insomma, quando c'erano difficoltà. Mazzarri deve avere la società alle spalle, deve avere delle certezze, non le aveva l'anno scorso, quest'anno non ha davvero più alibi. Credo che in questo momento abbia assolutamente la stima della società, ma altre partite del genere non siano ammesse, e soprattutto quest'anno bisogna vincere qualcosa. Come dicevamo prima, l'Europa League sarebbe già una prima vittoria. Credo sì. Che non ci sia assolutamente nessuna possibilità che l'Inter partecipi con Roma e Juventus alla corsa scudetto. Però io continuo a pensare che come organico sia la più seria accreditata al terzo posto, cioè è una squadra che a me piace, è chiaro che devono andare bene, sì, un sacco di cose. Penso anch'io, Inter e Napoli, ma anche Inter Napoli e 6.000 trova una quadra. Ha qualcosa di rotto nell'anima. Chi? Il Napoli. Che frase è questa? Ma non lo so, mi è venuta così strana. Il Napoli ha qualcosa di rotto nell'anima. Ma guarda, sì, che da Napoli adesso ti dicono, ma l'anima dell'impegno di mortacci tua 8-0-0-24-0-0-24. No, ha qualcosa di rotto dentro, cioè c'è qualcosa che non funziona. Però no. Due partite senza subire gol, secondo me è una sestatina. Sì, ma vedo, non lo so, mi sembra di vedere un filo che si è spezzato. È più forte il Napoli o l'Inter? È più forte l'Inter, credo che qualcosa sia aspettato davvero tra l'allenatore e la società, insomma, è una squadra triste. Dai, il Napoli è triste quest'anno fino a questo momento. Siamo pazzi, però una gravità inaudita, ma neanche alla Zanzara fanno degli attacchi così. È una squadra di straordinaria subito le subito Auriemme, chiama subito Sollazzo, subito bisogna riportare subito la centralità partenopea in questa trasmissione. No, ma c'è la centralità partenopea, figurati. Chiama subito Sollazzo, subito Sollazzo. O Auriemma, o Sollazzo o Auriemma. Uno dei due. O Nino D'Angelo. Non si può dire che il Napoli di Benitez ha tutta l'area. Giuliano Resio. Ha tutta l'area di una squadra in difficoltà. Teresa. Tutta l'area di una squadra. Che ridebra. Benitez, chiama Benitez. No, io non la penso. Io penso che Napoli abbia Nicola Lombardo, aiutaci tu. Esatto, credo che Napoli abbia invece dei valori di punta assoluti. E secondo me è chiaro, partita male, questo è indiscutibile. Però tu devi pensare alle 38 giornate, nelle 38 giornate, secondo me. Pier, però c'è qualcosa. L'idea è che ci sia qualcosa di spezzato nel rapporto tra Benitez, la società e la squadra. In questo triangolo. Ma le vittorie aiutano, Le vittorie, possono aiutare, però la sensazione è questa. Anzi, Chiere ha giocato a casa sua, ha segnato eccetera, però è un giocatore che è un anno e mezzo che non è più quello che eravamo abituati a vedere, quindi è inutile negare che ci siano dei problemi da quelle parti. I problemi ci sono, però ragionando sulle 38 partite, secondo me il Napoli può arrivare terzo. Sì, molto dipende anche dalla stagione di Higuaín e dalla voglia che ha Higuaín di far parte di questo progetto. Higuaín è il giocatore reduce dal mondiale, che insomma, l'unico protagonista vero dell'ultimo mondiale che è rimasto a giocare in Italia, se pensate, perché a parte Romero che portiere della Samp che sta cercando è più divertente che quella, però questa cosa di Romero è clamorosa, però è una macchina bellissima, è clamorosa, sì, clamorosa. Come Romero. Che spiegazione ci sono c'è giocatori che non riescono pensavo alla convocazione di Pellè, sì. Io ho conosciuto Romero insieme a Pellè quando giocavano nella Z Alkmaar, e ci sono giocatori che nel nostro che hanno grandi qualità e che nel nostro campionato non riescono a imporsi, anche lo stesso Pellè che sta facendo benissimo, che non so se è già ufficiale o probabilmente verrà chiamato da Conte, è un giocatore che in Italia non riesce Romero ha giocato a finale Romero dei mondiali, tutti gli allenatori terzo portiere a sonare guadagna anche un sacco di soldi. Esatto, per, tutti gli allenatori che insomma, più o meno tutti gli allenatori che l'hanno allenato, ne parlavo nei giorni scorsi proprio con Claudio Ranieri che l'ha allenato a Monaco, dicono che abbia una incapacità di rimanere costante per l'intera stagione, e questo probabilmente in un portiere pesa, in una competizione come il mondiale decisamente più breve, ha delle grandi dote, lo ha dimostrato, ha una grande reattività, coraggio. Invece, ragazzi, vi richiamo all'ordine, mozione d'ordine a borsa. Sì, la notizia intanto alle 14.29 è che c'è ancora la focaccia, Piantanita non mangia. Esatto. Ragazzi, e Cassano sta per tornare a Genova a giocare nella Sampdoria o nel Genova. Ve la dico così. Ma che senso? Non è che siccome siamo a Genova dobbiamo dire 24. E il pesto è stato appena inserito fra il patrimonio dell'UNESCO. Noi dobbiamo Cassano a Genova. Non so se al Genova, alla Samp o all'Entella. Lo scopriamo subito dopo la borsa. Io punterei sull'Entella. C'è una. Sì. Mi aspettavo di peggio, perché sono stato in altre piazze dove molto prima si cominciava a fischiare la squadra. Se la pigliano in quel momento con la persona più in vista, più evidente, con il responsabile. Ma ci sta. Tutti convocati. Non so se lei quanto mi conosce, ma mi creda che io ho sempre fatto del gruppo la mia forza. E i giocatori che in questo momento giocano di meno, comunque si chiamano, sono i giocatori da noi tutti più considerati e con i quali passiamo più tempo al fine di metterli a livello degli altri, proprio perché sappiamo che c'è la necessità di avere tutti durante l'anno, perché tutti ci devono dare qualcosa. Allora, adesso parliamo dell'Entella e diamo l'annuncio ufficiale che l'Entella prenderà Cassano. Ok. Io dico che Matteo Mattiazzi è il direttore generale dell'Entella, adesso ci dice. Io dico che abbiamo Mazzarani, abbiamo provato a giocare col trequartista, ci hanno preso quasi a pallonate, abbiamo fatto 5 partite, perché se no gioca seconda punta. Seconda punta. Ma se no lo faccio dire a Gian Piero. Io vedrei benissimo Cassano all'Entella, saprebbero gestire il ragazzo, chiave di una città a dimensione di Cassano. Poi parlo, tu andavi sempre a mangiare. Ammettilo, non lo chiedo. Ma perché Cassano, che è il capo, scusate, faccio un momento il procuratore, che è il capocannoniere della Serie A, dovrebbe andare all'Entella? Con tutto rispetto per l'Entella, è una proposta che eventualmente verrà valutata. Torna a Genova, non so se Genova, Sampdoria o Entella. Ma questo ce lo dice, sta benissimo a Parma, ha un grande rapporto con Pietro Leonardi, con Donadoni. Torna a Genova, hai visto? Perché voi volete, ragazzi, perché il secolo del Cimarono, quante copie vendeva in più? Come tantissime, no? Lo sai, insomma, ci vuole un personaggio per un giornale come il secolo. Lo aveva anche confessato in trasmissione da te quando Cassano diceva quante copie l'ho fatto vendere. Poi Cassano mi piaceva perché mi chiamava sempre direttore, non sono mai stato direttore. Perché è tipo avvocato, direttore. Esatto. Ma anche invece vuole, l'effetto Viperelli, come sono state le vendite di questa settimana dopo il derby? Beh, ma insomma, l'effetto Viperetta è Ferrero, senz'altro è un presidente che ti dà spunti. Ho una domanda dirimente. Che non si è mai capito bene. Però suona bene. Vende di più il giornale se il derby lo vince il Genoa o la Samp? Si diceva una volta al Genoa, adesso si arrabbieranno tutti i sampdoriani. Poi le vendite, più o meno, i lettori sono affezionati, quindi insomma sono costanti. Va bene, facciamo una domanda più diretta: ci sono più tifosi del Genoa o della Samp? Tu sei pazzo, io uscire dal Salone Nautico. No, non lo so. I genuani dicono di essere di più. Molti di più, e i sampdoriani dicono di essere molti. Invece, raccontami l'effetto Entella. Cosa rappresenta in questo momento? Rappresenta tantissimo per Chiavari, ma anche per la Liguria. Io spero che prima o poi riesca a rappresentare qualcosa di importante anche per il calcio italiano a tutti i livelli, a livello di squadra, ma anche, insomma, spero che il presidente dell'Entella, Gozzi, che è uomo di grandissime qualità, riesca a ritagliarsi un ruolo importante nel calcio italiano. Lo vedo un po' difficile questo ruolo in questo momento, visti quelli che sono i protagonisti del nostro calcio. Però qualcosa del genere aveva provato a fare Garrone, e poi alla fine si è stufato il presidente Garrone e ha venduto la Samp. Sicuramente Gozzi, così come Squinzi, del quale è ottimo amico, hanno le caratteristiche per fare qualcosa nel calcio italiano. Ecco, quindi Sassuolo Entella semifinale di Champions fra 5 anni. Va bene, e i progetti quali sono? Voi in 3 anni volete andare in A? Ma no, adesso c'è il modello Empoli per noi, sì. Questo quello che vogliamo fare. Mica male, eh? Empoli. Stabilirci in Serie B cercando di lavorare sul settore giovanile è difficile, però è un po' che ci lavoriamo. Da quando il presidente ha preso la società 7 anni fa ha aggiunto sempre qualcosa, ha investito sul settore giovanile. Noi non perché è così complicato in generale in Italia lavorare sul settore giovanile? Cioè... perché è un lavoro che richiede continuità, un gruppo solido di lavoro che continua a lavorare tutti gli anni cercando di aggiungere qualcosa. Invece di solito in Italia dopo un paio d'anni si cambia responsabile, cambia allenatore, si riparte, sì. Si vanno a cercare altri giocatori. Invece la continuità è fondamentale nel settore giovanile, è una cosa faticosa. Il settore giovanile. Posso dirti una cosa però, è vero, l'Empoli senz'altro è un grande modello, però è una realtà completamente diversa rispetto a quella dell'Entella, no? Sono due città simili, ma le potenzialità del presidente dell'Entella vanno sfruttate. Se ci sono le potenzialità, fondo, perché dobbiamo... Non sono quelle del presidente dell'Entella. No, con tutto, io conosco cosa... l'Empoli, ha giocato anche la Coppa UEFA, l'Europa League, l'Empoli, quindi insomma, voglio dire, non dimentichiamocelo, però credo che l'Empoli abbia potenzialità diverse. Non farà mai un modello diverso da quello, da una cosa tipo Empoli. Convincetelo! Io adesso, ho sposato il suo progetto. Il mio obiettivo oggi è uscire da Salone Nautico sapendo se Cassano va al Genoa o alla Sampdoria. Lo chiedo a Luca Bizzarri. Ciao Luca. Ciao, buongiorno, ciao. A tutti. No, non lo so se va al Genoa o alla Sampdoria, dovreste chiedere, avete i due presidenti, dopo chiedetelo loro. Io se vuol venire a me farebbe piacere. Sì, quindi tu sei un genoano che lo accoglierebbe a braccia aperte? Ma io accoglierei anche il diavolo se ci facesse vincere delle partite, io figurati un po', non ne faccio certo un problema di storia o di passato. Poi a me mi è anche simpatico Cassano, per cui soprattutto adesso che non gioca nella Sampdoria è molto più simpatico. Va bene, presenteremo, ma al di là di questo, è vero che il tuo programma preferito di Radio 24 non è più La Zanzara ma Tutti Convocati? Lo confermi ufficialmente oppure è un'indiscrezione paranoica? Smentisco e partono delle querele anche. Partono delle querele. No, sta facendo. Però sta raggiungendo. Diciamo che Tutti Convocati sta raggiungendo La Zanzara nella mia classifica podcast. Il che non so se è una cosa positiva per noi. Beh, parlo, però, comunque dici, posati, no? Un certo aplomb. Sì. No, assolutamente. No, voi siete meglio da tanti punti di vista. Sì. Quasi tutti. Senti, come riparte il Genoa dopo questa parentesi? Ma io non so a che parentesi tu ti riferisca, perché non ho ricordi. A breve termine di cose. No, il Salone Nautico, che altro è successo a Genova? Dopo il Salone Nautico ripartiamo alla grande, come sempre. Quest'anno abbiamo dei grandi obiettivi che sono gli stessi di sempre, cioè salvarci. Speriamo di farcela. Cioè, di non giocare con l'Entella l'anno prossimo. Mancherebbe solo tu sei di quelli che dici il derby di domenica non è mai stato giocato. Non ho capito, lo chiedo a Giampiero Timossi, il derby di domenica non è mai stato giocato. No, è stato giocato. Luca fa bene, Luca fa bene a non ascoltare quello che dici, però è stato giocato, sì, è stato giocato, è stato anche vinto per la Sampdoria. Come è stato giocato dal Genoa? Male, perché la Sampdoria con Mihajlovic ha messo in campo una squadra che, molto equilibrata, bravissimi a gestire la situazione, a gestire la palla. La Sampdoria, il Genoa doveva aggredire e il Genoa doveva aggredire e non l'ha fatto. Però io credo che, così per far arrabbiare un po' i sampdoriani, no, speriamo di no, credo che il Genoa quest'anno abbia sulla carta più qualità della Samp. Non ho mai detto questa cosa, voglio uscire vivo da solo, però ormai l'ho detto, chi se ne frega. No, ma tanto anche colpa perché... dell'arbitro, Genoa ha perso, no, chiaramente, ma... perché è colpa dell'arbitro. Beh, c'è chiaramente un gol in fuorigioco nettissimo, direi. Fuorigioco nettissimo, certo. Ma allora l'hai visto? Partita certo, dai, tesoro, gol, dai. Una partita senza tiro in porta, solo... senza nessun tiro in porta da nessuna parte, con un gol in fuorigioco netto. Basta, tutto lì, è finito. Che è il modo migliore per che Luca, tu sai perfettamente, è il modo più bello del mondo per vincere un derby. Esatto. Cioè, non c'è un modo migliore di questo per vincere un derby. Purtroppo è vero, purtroppo avranno goduto come degli matti, perché io a parte invertita avrei goduto tantissimo. Perché così poi più è fuori gioco meglio è. certo, questo è chiaro. È stato secondo me abbastanza simile ad Atletico Madrid-Juve come tipo di partita. Ancora. Sì, perché i valori in campo sono un po' quelli, insomma, no, diciamo sì, che i valori in campo erano quelli. A parte i valori in campo, ma voglio dire, qui adesso in questi giorni si è sentito secondo me un eccesso di critica sulla prestazione della Juve. È stata una partita eccesso di critica, Pierluigi, ma non ti importa nessuno, dai, ma bene, anche ma lì stare lì e giocare. Prestazione mi sembra una parola grossa. Prestazione. Ma così schifo vi ha fatto la Juve a Madrid. Sì, cioè voi eravate convinti che la Juve andava a Madrid, li metteva sotto, giocava, vinceva 3-0. Giocava, ma non ha giocato neanche l'Atletico Madrid, non ha giocato nessuno. E cosa vuol dire? Però l'Atletico Madrid ha fatto questo Corriere, l'Atletico Madrid ha fatto la partita che voleva fare, così come la Sampdoria contro il Genoa ha fatto. Ma anche la Juve ha fatto la partita che voleva fare, a meno che non partiamo all'idea che la Juve sia nettamente superiore all'Atletico Madrid e quindi vada a Madrid serenamente a giocare, a dominare. Questo non può essere, è oggettivamente. Però poi che cosa succede? Che esattamente come nel derby di Genova, poi chiaramente con un livello tecnico un pochino diverso, poi alla fine il risultato fa opinione, per cui l'episodio, che è parte del gioco, poi influenza i giudizi. I giocatori della Samp prendono mezzo voto in più in pagella tutti, i giocatori del Genova prendono mezzo voto in meno tutti, e la stessa cosa è successa perché il calcio è questo? Perché il calcio è questo, per carità. Io lascio il giudizio al giudice Luca Bizzarri, che poi saluto. Veramente paragonare Atletico Madrid Juventus a Genoa Sampdoria è una cosa che secondo me proprio non si può fare, perché si tratta di due sport completamente diversi, voi lo sapete, cioè sono proprio quelli giocano in un modo e noi poveretti giochiamo in un altro, sono proprio due cose diverse. Rimango dell'idea che sia stata una pessima partita quella del Genoa contro la Sampdoria, però come dire, sono cose a cui noi genovani siamo abbastanza abituati. Ecco, io mi ricordo le belle partite del Genoa, le brutte le metto tutte insieme, se sono molto di più, insomma noi qui il calcio che giochiamo noi è quello lì, calci e pugni, palla avanti, pedalare, aspettando Cassano che Pinillo Matri ma secondo me in questo momento Piniglia. Ma oltretutto io so, perché ho degli informatori, che lì al Salone Nautico c'è un mio caro amico che è Maurizio Setti, il direttore il presidente del Verona, lui è uno che se ne intende molto di calcio, se lo intercettate lui è... digli di passare qui, siamo visibili, io peso 115 kg e comunque lo stand ma è enorme. Invece ti ho visto in forma, ma hai visto bene, Luca, siamo tutti ti aspetto verdi, a Tikitaka, appello al signor Caschetto, questo ragazzo è un talento, se viene a Tikitaka non gli fa male, questo ragazzo, lui e l'altro, il greco dell'Olympiacos lì, che si Soglu, se vengono a Tikitaka si divertono. Appello al signor Caschetto, ti vogliamo bene. Ciao Luca, molto grazie. Ben frequentata quella trasmissione, per cui qualità è l'alto in basso, Bizzarri. Traffico. Perché io quando sono arrivato a Parma ho detto al direttore, sappi che non ti metto che voglio andare a Real Madrid, al Barcellona, io sto benissimo a Parma, però se arriva la Sampdoria per una questione di famiglia e perché sono innamorato di quella squadra, che voglio tornare in quella squadra là, mi devi aiutare ad andare. Tutti convocati. Ciao Ilaria, un po' che la palla a Matano, se ne ho messa. Ho voluto unire due forze che sono simili, cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita, Forza Sampdoria. Ne la faccio più. Sarà un luogo di incontro, non sarà soltanto un luogo di calcio, sarà un luogo di sport, un luogo di discipline sportive, di entertainment, che dovrà essere... Tutti i 7 giorni dovrà lavorare, deve essere una grande attrazione e deve diventare il più grande stadio d'Europa, perché voi immaginate uno stadio sul mare, dai. Ma la cosa bella, che è un destino, che il sindaco di Genova si chiama Doria, per cui sarà ricordato negli ultimi 150 anni questo signore. E allora io spero, auspico che di prendere un grande appuntamento, tirare fuori questo progetto e riportarlo in vita. Chi lo paga questo progetto e questo stadio? Pantalone, c'è sempre Pantalone lo paga, perché questo qui non ha fatto chi lo paga. È chiaro che ci saranno dei finanziatori oltre me, e il comune ci deve dare i terreni in concessione per 99 anni, perché lo stadio rimarrà ai genovesi a Genova, e non è che ce lo portiamo a casa. E poi devo salutare l'amico, gli volevo dire che c'ho nell'ardito, c'ho il mosquito e la vorrei portare a Ostia Lido. Ciao d'amico! Non riesco a stare senza di lui, mi dispiace. Fatela tu risate, li vede tutti seri. The best of, cioè, no, cioè, ma non, Piero, scusa, non mi sta venendo in mente, felice, scusa, ovviamente posso ha risolto qualunque problema professionale per, alcuno, per alcuni anni. Anche cioè, Matteo Matteazzi, che adesso farà affari con la Sampdoria, andrà a trattare con Ferrari, no, deve scusa, essere qualcosa. Avete il discorso dello stadio in sospeso, perché non fate lo stadio con Ferrari? Ma che sta, ma quale stadio? Non lo faranno mai. E vabbè, facciamo, spostiamo la Samp a Chiavari, no, è un problema. Quello potrebbe essere una buona idea. Beh, la Bogliasca a Chiavari che saranno 12 km, 15 km, questa 30, dai. Strada stupenda, farà la... Bello, no? Ma non faranno mai lo stadio a Genova. Almeno 30 ristoranti in quei 30 km. Non passerà mai lo stadio a Genova. Tu li fai tutti lo stesso giorno. Faccio il primo da uno, poi prendo il secondo all'altro, poi riprendo il primo. No, no, è una delle strade più belle d'Italia, tra l'altro, quella, quel lato lì. Io voglio parlare con gli ascoltatori. Posso? Sì, prego. Cosa hai detto? Non hai un altro figlio che ci va a prendere dei caffè? Li ho finiti in prevendita. No, adesso non ne ho più, però rivolgiamo un appello al pubblico. Al pubblico, se volete portare dei caffè potete farlo. Ecco, non... al Salone di Genova. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Non è che ha la possibilità di portarci dei caffè qua a Genova, no? Da Milano è dura, come faccio? Milano è dura, sì. Sì, un po' lunghetto, sì. Ascolta Carlo, dimmi. Una cosa ti volevo chiedere, ti volevo dire, una riflessione. Io ho sentito Allegri dopo Atletico Madrid-Juve, no? Criticare Sacchi dicendo che l'Atletico gioca a palla lunga, non riesce a fare due passaggi messi in croce. Allora, ti racconto un attimino brevemente la storia dell'Atletico. 4 anni che gioca con lo stesso allenatore, gli hanno venduto il mondo a Simeone. Intanto gli ha vinto una Supercoppa europea, una Supercoppa di Liga, ha vinto il campionato con due mostri sacchi come l'Atletico Madrid e Barcellona, finale di Champions League, finale di Champions League, e sappiamo sappiamo tutto, però la Juventus lo so, però la Juventus è andata lì e secondo me doveva giocare una partita diversa. Franco, se vuoi stare in linea rimani, adesso io devo salutare Giampiero Timossi che deve andare via, devo salutare Matteo Mattiazzi. Posso chiedere una cosa in 28 secondi? Non so, chiede a Piantarino. Ma sul decreto, sul decreto Renzi, non so, sulla sicurezza... No, vabbè, me la dici adesso in privato e poi... Matteo Mattiazzi, direttore generale dell'Entella. Noi invece ci fermiamo qui, abbiamo Bet Corner, GR, poi torniamo. Ciao ragazzi, grazie. Quoto e pronostici. Questo weekend è già tempo di sesta giornata con la super sfida tra Juve e Roma. Si gioca allo Juventus Stadium alle ore 18 di domenica. E diamo uno sguardo alle quote SNAI per questa super sfida. L'1, la vittoria della Juventus, che è favorita per questo match, è quotata 1,95. L'X è a 3,50. Il 2 invece, con il successo dei giallorossi, è quotato 3,85. Domani invece i primi due anticipi con alle 18 al 20 godi la sfida tra Verona e Cagliari. L'1, la vittoria dell'Hellas, è quotata 2,10. L'X è a 3,40, così come pure la quota del 2. Alle 20,45 invece in campo il Milan contro il Chievo. L'1, la vittoria dei rossoneri, è quotata 1,40. L'X è a 4,90. Il 2 invece con il successo del Chievo è quotato 8. Questa sera in campo la Serie B, all'Armando Picchi con nella sfida tra Livorno e Crotone, si gioca alle ore 20:30. L'1, una vittoria degli Amaranto, è quotata 1,90. L'X è a 3,30. Il 2 invece con il successo del Crotone è quotato 4,25. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, a risentirci domani. Ma tutti convocati. Ultima partita! Gol! È sperato! Juventus subito in avanzato! Colpo di testa a schiacciare da due passi di Martin Caceres! Tevez scivola, la mette dentro comunque, Pogba gira ancora! Carlitos! della Juve. Buone Padoin, Nick Steiner, tanto spazio, Nick Steiner! 3-0, partita chiusa, ora in modo definitivo si apre la difesa del Cesena, la Peppa, Stefan Nick Steiner. Porta verso l'angolo, si distende adesso la Roma, lancio per un mezzo, l'uscita di Aldo, Totti, rete, a 38 anni della leggenda della Champions, ma nessuno ha segnato a quest'età il pari della Roma. Ottimo l'aggancio di Livoriano che cerca il destro, rifallo, favorisce Florenzi, Alessandro Florenzi, lo aveva promesso prima della partita, trasforma il tocco di Gervinho in oro e va in tribuna ad abbracciare la nonna che è qui allo stadio per la prima volta nella sua carriera. Vabbè, così ci prepariamo per quello che verrà nel weekend. Io e Pardo qui a Genova, Salone Nautico, siamo sempre qui. Sì. Ci hanno lasciato gli ospiti di prima, li abbiamo rimpiazzati, un grande happening, un momento grandi. Abbiamo anche lo skipper, eh? Abbiamo lo skipper, ci mancherebbe altro. Abbiamo lo skipper con tutte le maiuscole, lo skipper di Luna Rossa. Esatto. Max Serena, ciao Max. Come va? Non sento un cazzo, ha detto. Mi sembra di aver capito questo oggi, dal labiale. Oggi è bonaccia, proprio bonaccia. Oggi è bonaccia, gli esperti locali hanno detto che è bonaccia. Beh, oggi mi sembra di sì, non c'è un filo di c'è vento solo qui tu. Sopra, ma in mare non c'è niente. Dimmi tu, ma oggi a vera non è meglio andare. Stare a mangiare le trofie. Giretti in barca dopo non si fa. Giretti in barca io e Pardo, niente dopo. Poi visto la stazza tua, con poco vento, non andiamo troppo lontano. Simpatico, proprio il classico skipper simpatico. No, volevo dirti, ma qual è il tuo vento preferito? È molto stupida questa domanda. Tu. Beh, ci sono dei venti, per esempio lo scirocco, il mare. 15 nodi, vai. 15 nodi, il scirocco sarebbe perfetto. Sì. Il tuo vento preferito. Scirocco non mi piace, però mi fido dell'esperto. No, 15 nodi. Ma il maestrale è bello, dai. Maestrale ma dipende dove sei. Ah, infatti, hai ragione anche perché tu. Perché se no c'è più o meno onda. È chiaro. C'è anche il barbone supremo a proposito di magliette non griffate Prada. Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno. Vista la caratura degli ospiti, mi sento un supremino oggi. No. Ti sento supremino. No. Sì, abbiamo questa serie di magliette con frasi di Bosco, frasi celebri, ma vai in barca vera, no? No, uomo, io non di sono terra, un, uomo di non terra, sono un grande uomo di mare. E Max Serena va allo stadio a vedere il calcio? No, mi piace il calcio. Sì? Quale tipo? Purtroppo sono dichiarare tifo, prego. Purtroppo sono, si può dire, sono uno sfigato, sono interista. Ma perché? Questo buttarsi perché? Giù in questo perché? Modo. Ma perché? Diciamo che non vedo. Ti piace lo skipper Mazzarri? Ti piace? Si può dire? Certo, può dire quello che vuoi. Non tanto. Non credo sia l'allenatore ideale per quella squadra. Mettiamola così, vai. Senti, invece, a proposito di Inter, perché Barbone Supremo la moda delle magliette con l'evidenziatore? Cioè, sì, quella della Juventus verde era terrificante, questa dell'Inter azzurro evidenziatore, perché la moda dell'evidenziatore? Per lanciare gli slogan il giorno dopo la partita. Juve al verde, questo al giallo. No, no, non credo. Sono diventate più modaiole e meno tecniche. Vabbè, all'apparenza. Tu dici? Beh, sì, questa è la terza. Questa era quella dell'Inter di ieri sera, è l'equivalente preciso di quella della Juve. Ma secondo me quella dell'Inter è pensata meglio rispetto a quella della Juve, perché comunque almeno prende, almeno riprende i colori un po'. Ed è un po' più sobria. Quella della Juve quasi si mimetizzava il campo. Hai ragione. Però è la stessa cosa. Hanno parlato tutti della maglia verde il giorno dopo. Hai visto? Era una questione di marketing. No, ma è chiaro che è una questione di marketing. Insomma, negli anni 90 a un certo punto le squadre inglesi, che erano quelle all'avanguardia, cominciarono a cambiare la seconda maglia ogni due anni. Quindi questo era il ritmo, no, di cambio di maglia. Adesso ogni anno cambiano tutte e tre le maglie perché bisogna vendere. Ma insomma, io non in generale non sono contrario a tutte le critiche passatiste sul calcio di oggi, cioè, tutti ti dicono che era meglio una volta, adesso si giocava alle 2:30. Poi ci sono delle esagerazioni, certo, la Juve che sembrava l'Uniposca, insomma, francamente l'Uniposca. Vogliamo, perché il blu, il giallo del Napoli, sì, molto accesi come colori, quello della Juve, camuflage del Napoli piaceva molto, anche Jeans, insomma. Ma io ti dico, non sono un come te, poi non sono... ma si guarda adesso non si vede la maglietta di oggi di Genta, cosa raffigura questa cosa? È un orso. Un orso con delle gorilla cuffie, con è un gorilla quello? Poi, sì, un gorilla con vari piercing. Con vari piercing e con le cuffie della radio, praticamente. Sì, esattamente. Una maglietta inquietante, secondo me. Tanto faccio uno scambio. Però ha detto che è la terza maglia di Genta, è la terza maglia, quella quindi quella per le grandi occasioni da trasferire. No, però comunque al di là di tutto questo, anch'io non sono. Le magliette è un discorso che appassiona molto, secondo me, la gente. Io non sono uno legato al passato, però almeno che siano belle, perché quella camuflage del Napoli a me piaceva, quella di Jeans parliamone. Io ho visto, ricordo una maglia della Juventus, quella rosa acceso con la stellona nera, che era veramente un insulto alla... anche se in qualche modo aveva un valore storico, perché riprendeva la prima maglia della Juve, quindi Puoi farla in un'altra maniera, cioè siamo le mode, ragazzi, ma insomma è così, è ovvio che più sei originale più rischi di... Quella della Roma quest'anno mi piace tantissimo, la terza? Quella marrone scuro? No, di... la prima, la seconda è molto bella, prima e seconda bellissima, sono secondo me la terza non mi piace, terza non piace neanche a me, un marrone mattone, sì, un marrone scuro. Beh, insomma, comunque alla fine questo è insomma, bisogna vendere le maglie e evidentemente ci sono delle nicchie di mercato. E Prada che... dove va? Ah, Prada. Prada dove va? Bisogna chiedere a Prada, non so dove va. Com'è la vita di uno skipper? Cioè, tu che fai di solito? Oltre quanto navighi in un anno? In un anno? Sì. 200 giorni, 250 giorni. Giornata tipo è dalle 7 di mattina alle 8 di sera. Ci si sveglia. Si va in palestra, si allena, poi si preparano i meeting, i debriefing prima di uscire in barca, poi si esce in barca 4-5 ore, si rientra, si discute la giornata in mare, si programma la giornata il giorno dopo. Quindi quanti bagni fai in un anno? Quasi mai. Spero pochi, perché se faccio il bagno vuol dire che sono caduto dalla barca. pochi. Rarissimi. Ma il mare è ancora un piacere, cioè è ancora il piacere di fare la gita? Non smetterei domani. No, ma dico il piacere, perché esiste il piacere della navigazione che è diverso da quello di farsi il bagno, no? Sono due sport diversi. Un'altra cosa. Ecco. No, vabbè che con le barche di oggi siamo più sott'acqua che fuori dall'acqua, perché sono abbastanza performanti, insomma creano abbastanza spruzzi dalle onde, le cose, quindi si è sempre bagnato, infatti usiamo mute, non usiamo più l'abbigliamento classico da barca, quindi siamo più... tecnologici. Sì, siamo più dei sub che dei medici veri proprio. Passano a scoffiare, quello. No, quanto si incazza uno skipper con l'equipaggio? Quanto? Si incazza. Ma con l'equipaggio non tanto. Cioè, a volte anche con l'equipaggio, più che altro devi gestire 80-90 persone, quindi ci si incazza spesso, diciamo, durante l'arco della giornata. Cioè, non è una roba rilassante. No, non è rilassante, purtroppo. Ma mai hai avuto paura? Scusami, in barca hai mai avuto paura? Sì, spesso. Raccontaci la paura più grande. È un momento, voi siete qui, un po' Matteo Caccia. Voi siete qui. Matteo Caccia. Antonio da Ribello, Mariano Trieste, Paolo da Carrara. Arriviamo. Anche voi. No, ce ne sono tanti. Barca, ad esempio con i catamarani è molto facile ribaltarsi, sai, quando ti ribalti con un oggetto del genere che magari sta andando a 45 nodi e nell'arco di 5 secondi da 45 vai a 0 e ti stai ribaltando. Lo scorso anno è morto un ragazzo, poveretto, perché si è ribaltato una barca e è rimasto bloccato sott'acqua. Infatti abbiamo tutta una serie di attrezzature, delle piccole bombole di ossigeno nel caso rimani sott'acqua, dei coltelli, facendo degli allenamenti particolare di rianimazione anche in mare, di apnea, quindi è cambiato un po' il modo di andare in barca, un po' più. No, io ci stavo chiedendo se fate anche i calcoli dei tempi quando c'è da cambiare, certo. Tira su, giù, vele. Abbiamo, no? Certo, abbiamo 5 telecamere a bordo e filmano tutti i movimenti dell'equipaggio a bordo, quindi dopo facciamo a fine giornata un debrief dove analizziamo per migliorare. E poi abbiamo telemetria tra la barca vela vera e propria, le barche appoggio e ci seguono, abbiamo la telemetria, quindi i designer sono in grado di vedere tutti i dati, un po' come succede nella Formula 1 del mare. Sì. Maxi Rena usciva quel giorno come tutte le mattine ed era felice. Il motivo per il quale fosse in mare non se lo ricordava neanche più. Ma in fondo c'era, perché il mare era la sua passione. E tutte le mattine, guardando le onde, lui diceva al mare: voi siete qui. E il mare gli diceva: scusa, ma io sono singolare. Ah, scusa, mi sono sbagliato. Tu sei qui. Voi siete qui. Alle 16 c'è caccia. Non si sente Piantanida? Vabbè. Comunque, insomma, vi ricordiamo che alle 16 c'è. Nel momento voi siete qui totale. Voi siete qui, voi siete qui. Perfetto. Voi siete qui. E quando hai cominciato a dare il tuo al mare, quel giorno? Ero piccolino. Sì, sì, mi ricordo. Che gli hai detto? No, era un momento letterario. In montagna non ci vai mai sciare. No, ma non, c'è troppo casino in montagna. Ma sì, ma c'è troppo traffico. Iniziato presto, perché i miei avevano un albergo a Rimini, quindi il posto più sicuro era mandarmi in spiaggia, e quindi da lì ho iniziato. Il mare che ti piace di più in Italia? Io ho delle curiosità, adesso tra un po' ti chiedo il telefono direttamente. Sì. Mare mi piace di più, sud della Sardegna. Quindi Porto Tramazzo. Bravo, Chia. Chia, Porto Tramazzo, Capoteolada. Mi piace a tutti il mare della Sardegna. Capito, ragazzi. Porto Tramazzo è una perla, eh? Bisognerebbe dirlo a tanti. Tutte le Maldive quando l'abbiamo qua. Ma sì, ragazzi, ma non c'è partita, dai, su. A parte che, voglio dire, dal punto di vista gastronomico, le Maldive, dai, non di che stiamo parlando. No, ma c'è il buffet lì. Come si chiama quella maglietta vicino a Porto Tramazzo, quella base militare dove ci sono ancora i boss? Cala Zafferano. Cala Zafferano, posto clamoroso. Dove non si può andare, vero? Infatti noi non ci siamo mai andati, devi stare attento a saltare, a camminare. Noi non ci siamo mai andati, andato, adesso arriva la Guardia di Finanza e ti porta via. Non ci siamo mai andati, ne ho sentito parlare. Salutiamo gli amici finanzieri, tutto a posto. Benissimo. Pardo verrà portato via subito dopo la fine della puntata alle ore 16. Antonio, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Il suo mare preferito qual è? No, io vorrei parlare di Mazzarri. Di Mazzarri con Max Sirena, naturalmente, parlerà di Mazzarri con lo skipper di Luna Rossa, non certo con me, Pardo. Dica. No, dica, dire, dica, cioè, dica, da, dica. Cioè, da un po' di giorni, quando si parla di Mazzarri, mi ho sempre sentito, cioè, quasi come difenderlo, trovargli delle attenuanti. Sì. Sul suo non gioco. Cioè, bisogna avere il coraggio di dire Mazzarri è mediocre. Perché io che seguo l'Inter da 50 anni, se torno indietro per trovarne uno più scarso di Mazzarri, devo risalire a quelli capaci di Tardelli, che dopo l'esperienza Inter infatti è finito a fare il portaborse di Trabattoni. Cioè, allora dico io, bisogna avere il coraggio di dirlo. Che l'Inter non ha un gioco, perché non ha un gioco? Perché l'allenatore è un mediocre. E adesso mi dica anche che l'allenatore ideale per l'Inter sarebbe Zenga, mi dica anche questo. No, gli do di più. L'allenatore ideale per l'Inter sarebbe Bielsa, come sarebbe dovuto succedere due anni fa prima di Mazzarri, quando si era in contatto con Bielsa. Perché Bielsa con quattro disgraziati là è intanto cambiato francese, perché il Marsiglia ha quattro giocatori in pratica. Sì, vabbè, non mi sembra che Mazzarri abbia fatto proprio malissimo con Aronica. Com'era la difesa del Napoli? Aronica, Cannavaro. C'era Grava anche. C'era Grava. Primo periodo c'era Grava. C'era Pazienza in mezzo al campo. Pazienza. Non esattamente Real Madrid. No, ma infatti io. Però, questo è un dato. La telefonata del nostro ascoltatore in qualche modo racconta un disagio diffuso da parte dei tifosi dell'Inter nei confronti di Mazzarri. Ed è insomma quello che ripetiamo dall'inizio del campionato: che la missione dell'Inter è resa certamente più complicata da questo scetticismo, se non proprio ostilità che c'è nei confronti. Chiediamo a Max, perché? Che è tifoso dell'Inter, perché? Perché quanto tempo abbiamo a disposizione? Lo dico io, perché siete ancora innamorati. Ma tu hai ancora il cuore trafitto, lo sai perché? Non avete ancora, secondo me, elaborato il lutto della presenza leggendaria di Mourinho. Ma la vita va avanti, figlio mio, vagliela a dire. Mazzarri, allora, però si vive dei ricordi. L'anno scorso Mazzarri non ha fatto bene, questo è fuori discussione, è stata forse la peggiore stagione di una carriera fin qui buona, molto buona. Però insomma, da qui a trattarlo come un fesso, o lo stesso che era successo anche a Benitez subito dopo l'esperienza con Mourinho, per me è quello. Che comunque non è difficile elaborare il lutto della tua donna che ti ha tradito, ed è andata prima a Madrid e poi è andata a Londra. con quegli altri, capito? Capito? Sono d'accordo. È questo, vedi, non si sono ancora ripresi. Prego. Non è andata a Madrid, è rimasta a Madrid. Sì, dopo la vittoria è andata via. Quello è un dolore notevole. Non è tornata, non è tornata dell'amante, è andata via. Sì, sì. Quella è stata brutta. Vabbè, ma la vita va avanti. Ma chiaro, ma che secondo me appunto, andiamo avanti. Però guarda, sinceramente io credo che Mazzarri una possibilità la meriti. Cioè, non, a parte che non ci sono alternative in questo momento, nel senso che lui è allenatore dell'Inter, ma non è detto che sia colpa di Mazzarri, eh? Io ho detto semplicemente non è l'allenatore adatto all'Inter, quindi beh, bisogna intendersi anche su quale Inter, cioè, secondo me è invece un allenatore adatto a questa Inter che si sta ricostruendo, che non ha fenomeni, che ovviamente ha dei colori importanti su una maglietta, anche lì parliamo della prima maglia dell'Inter un'altra volta, però ha dei colori importanti, ha un passato importante, ha un presente da squadra che si sta ricostruendo, e Mazzarri per questa squadra secondo me può anche essere l'allenatore giusto. Max, prima di salutarti vorrei sapere quali sono invece i prossimi appuntamenti non tuoi personali e di Pardo, che so che andrete al mare, ma sì, di Luna Rossa. Adesso noi fra poco terminiamo un periodo di 2 settimane di allenamento, dopodiché ci fermeremo per 2 settimane e mezzo per delle modifiche sostanziali alle barche, e poi dai primi di novembre ritorneremo in acqua per continuare lo sviluppo sportivo e tecnico in mare fino a Natale. Sostanzialmente navighiamo anche d'inverno, non è che andiamo solo d'estate. Certo, soprattutto d'inverno. Soprattutto d'inverno. Perché c'è più maestrale. Guarda, io nel mio quindi piccolo... sono le condizioni ideali per te. Esatto, io infatti 2 o 3 giorni con i miei amici velisti, 2 o 3 giorni li faccio, io non faccio niente, metto la musica, cambio... essenzialmente io è importante pure quello, c'è lo stereo, l'iPod, io solo l'ho detto l'iPod, capito, sentiamo tutti questi cantautori, solo uomini, sì, roba virile, sì, mediamente, sì, cioè, portarti in barca vera è un debito, ma totale. è una nostra scelta, perché, ma noi guarda, avremo ogni volta, io, Raffi, Valerio, i miei amici della barca, avremo 50-60 candidature di donne che dicono veniamo in barca con noi, che bello andare in barca d'inverno a gennaio che ci sono 10 gradi, cioè, però noi ci opponiamo per un discorso, etico, magari in futuro ci apriremo a questa novità, ma per ora assolutamente non se ne parla. Sì. Portati il Pardo su una rossa, magari come venire quando dove grazie, Cagliari, vabbè, arrivederci, ciao. Vabbè, questa è una dichiarazione ufficiale resa a todo il popolo italiano, no, facciamo, cioè, sei invitato ufficialmente su una rossa dallo schipper Marsilena quando vuoi. Yeah. Ma può venire così, deve mettersi in forma, che gli facciamo che fare? Vuol dire deve mettersi in forma? No, facciamo un rinforzino strutturale. No, ma ha chiesto io. Sono sospeso fra questa esaltazione per una possibile, neanche vacanza, per una possibile esperienza in barca mitica, e diciamo così, il dolore per la rimagina che viene clamorosamente dileggiata. No, ma stavo solo chiedendo, visto che vai su Luna Rossa, sì, e poi facciamo il reportage con il tuo telefono che non si sente da sotto casa, figurati da l'anno scorso ho fatto il collegamento dalla barca. Sì. È andato, ti giuro, è andato benissimo. Non so se ti arriva a gennaio. Benissimo. Ti cascassi in acqua quel telefono, guarda. E ho fatto anche quest'anno la prima puntata tornando da Ponza. Che ti cascassi in acqua, guarda, quel telefono. Un giorno la maschera e boccaglio e pinne a posto. Vabbè. Che ti vedo bene anche. Chiamiamo pure Vianello, il cantante, no? Con le pinne, il fucile e il boccaglio. Va bene, comunque vabbè, adesso mi prendo il numero, quindi vogliamo fare domani. Ah no, c'ho Milan Chievo. Lunedì. Lunedì c'è il post per martedì, no, vai. Martedì, no, il giorno giusto è l'11. Siamo tutti liberi. L'11 ottobre. Siamo tutti liberi. Non ho niente da fare. Facciamo l'11 ottobre. Sabato, facciamo l'11 ottobre, sabato. Allora tutti in barca. Tutti in barca. Cambio di programma. Alla signora Simona lo racconteremo un'altra volta. Un'altra volta. Ragazzi, ci stanno per arrestare. Grazie, Max Sirena. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Barbone Supremo, grazie. Sei sempre benvenuto. Grazie a voi, ragazzi. Noi adesso abbiamo la borsa, poi Maria da Trieste, Paolo Carrara, Giuseppe eccetera, 800 24 00 24, non ci muoviamo più da Genova, giusto? Voi siete qui. Tutti convocati. Oh, il rumore dell'interferenza del volley. Oddio, Biancaneda. No, oddio mio Biancaneda. Io ho seguito fino a Genova, ragazzi. Ma Max Serena, ma non si poteva portare via Biancaneda in barca? Ora che non c'è più nessuno, possiamo finalmente parlare di volley. Ah, che bello. Però vinciamo, Ma vinciamo sempre. Io seguo le ragazze. Una partita in tutto il mondiale. Ieri tra l'altro, sera, tra l'altro come l'abbiamo persa? Tie break, una roba inutile. E ieri sera contro il Belgio. Classico. Adesso la guarda in quadra. Classico 3-0. Belgio gioca una palla, gioca una pallavolo in Belgio. Dai, no, ma che c'entra? Ma no, ma gioca la pallavolo, ma la pallavolo sta diventando uno sport globale, Azerbaijan, Repubblica Dominicana, Belgio. E noi siamo ancora lì. Noi siamo lì. Voi siete qui. E noi siamo qui. Voi siamo dappertutto. Vabbè, tanto io devo farvelo sentire, un bonito al giorno. Posso dire una cosa, Bonitta che è bravissimo, però parla veramente come gli allenatori del calcio, cioè pensiamo una partita alla volta, rispettiamo tutti gli avversari. Sentiamo che cosa ha detto. Vai. Abbiamo fatto una bella partita finalmente, senza tante sbavature, sempre con grande attenzione, anche alla fine qualche piccola incertezza, abbiamo recuperato subito, siamo alla grande. Per una volta ho fatto i cambi, diciamo così, strutturati, non i cambi, diciamo, di emergenza, ma vanno bene lo stesso, finché vanno li faccio. Vabbè. Hai ragione tu, stavolta abbiamo giocato bene. No, anzi, forse è il Bonitta più pregno dall'inizio del mondiale. Quello che è più. Se restiamo sotto la sabbia, visto che siamo al mare. Sì, sì, sì. Dobbiamo continuare a avere, secondo me, andare a fari spenti. Fari spenti sotto la sabbia, andare sotto la sabbia. Poi alla finale li accendiamo. Basso profilo. Semifinale, comuni, no, finiti. Maria Trieste, buongiorno. Io voglio parlare con gli ascoltatori, però, ragazzi. Maria, Paolo e Giuseppe, vi ringrazio tutti e tre dal profondo del mio cuore. Maria, che sono in linea. Signorina da, Maria. Da Trieste, con le mie città preferite. Buongiorno, pronto? Maria. Pronto? Pronto? Buongiorno, auguri. Buongiorno. Radio 24. Grazie, grazie. Grazie. Domani battiamo 15 allora, 15 anni? Domani battiamo 15 anni. Sì. È vero? E regaliamo una maglietta di Radio 24 anche a lei, a tutti gli ascoltatori che oggi sono intervenuti. Una? Ma sicuro, anche due. Anzi, due, bene, due di allora sicuro. Facciamo due, che è ancora meglio. Perché le piace Radio 24? Se dovesse riassumerla con una frase, allora, un po' celebrativa, ma non troppo. Per me è una trasmissione che mi gratifica tanto, in quanto che comincio la mattina presto a sentire la rassegna stampa e poi c'è lì. Milan, e poi ci sono Milan. Sì, Milan, poi c'è quella delle 12:40 che ci tiene 20 minuti di compagnia, Nicoletti, giusto? Nicoletti, il signor poi Melo. C'è la trasmissione dell'economia che sento alle 5 alle 6, no? Ma poi alla sera ma poi c'è tutti, tutti convocati, se l'ha dimenticato. Tutti convocati, li ascolto tutti i santi giorni, da questo perché volevo ci ascolta? Perché ci ascolta? Facciamo questo momento elegiaco. Perché poi, ci ascolta? Volevo dire, pronto? Dica. Pronto? Volevo dire che da Trieste è un'altra città di mare, che naturalmente ricordare che il 12 di ottobre c'è la Barcolana e non è da... Ma... Guardi, Genova e Trieste sono due capolavori, molto simili, ecco, fra l'altro. Ecco. No, ma siamo stati anche a Cuffie d'Oro, siamo stati 10 giorni fa a Trieste. C'era anche il signor Cruciani, il signor Barisoni. Ecco, lei dov'è a Trieste? Dov'è? Rispetto a Piazza Unità dov'è? A 100 metri da Piazza Unità, in galleria. Spettacolo. In galleria. Spettacolo. Perfetto, signor. Dunque volevo dire che è un piacere straordinario sentirvi tutti i giorni. Poi naturalmente io amo il calcio e vorrei sapere da voi in Champions League che possibilità abbiamo. Io me le sono seguite tutte le quattro ieri sera. Abbiamo fatto poker, giusto? Sì, poker. Champions League o Europa League? Ebbene, io seguo tutto, ecco. Mi piace il calcio, mi piace il calcio. Scatenata! Quali possibilità hanno le squadre italiane in Europa? Mi piace moltissimo quando gioca Tevez, cosa vuole che le dica? Buon gustaia, anche a me piace moltissimo quando gioca Tevez, avrei voluto vederlo anche in mondiali, ma questa è un'altra storia. No, secondo me abbiamo possibilità di far bene, come direbbe Dino Zoff, che è frulano. ma insomma qui non c'entra la rivalità fra Venezia Giulia e Friuli. Perché abbiamo secondo me le due squadre migliori che sono in Champions, e abbiamo delle buone squadre, imperfette ma buone, che giocano l'Europa League, quindi diciamo che ci accoppiamo bene con le competizioni. Poteva esserci qualche dubbio sulla Roma legata alla forza del girone, alla forza degli avversari. Mi sembra che dopo due partite la Roma non abbia nessun complesso di inferiorità, e sulla Juve ribadisco, io in questo momento non ne vedo tante meglio delle squadre italiane. Non ne vedo tante, cioè poi cresceranno, no, ovviamente non abbiamo i valori per poter arrivare fino in fondo, però secondo me in questo momento, ora, ma sì, secondo me in questo momento tutte e due possono arrivare nei quarti. Ecco, questo mi sento di poterlo dire. Paolo Carrara. Carrara, la città come di Buffon, pronto, come va? Di Buffon e del marmo soprattutto. Qui c'è il marmo, c'è Colonnata, il Lardo, poi c'è intanto sole. Ora voi siete a Genova, io sono qui a Marina di Carrara, sono di fronte al mare. Mica male. Prima di tutto tanti auguri per i 15 anni, siete una radio fenomenale, non ci sono problemi. L'unico che disturba un po' è quel Parenzo, ma vabbè, il signor Parenzo, mettiamolo anche a lui via. Se è un rompicoglioni, vabbè. No, povero David, chiama David subito, tu confronto l'americana, David, mando subito un WhatsApp a David, confronto l'americana tra Paolo da Carrara e Parenzo, così se la risolvono tra di loro. Mentre cerchiamo Parenzo, dica. Sì, no, io sono romanista, no, volevo rispondere io. Romanista di Carrara? Romanista di Carrara. Perché? Sono stato anche presidente, a tempo che c'era Viola ero presidente del club. È vero. Aulla, pochi chilometri da Carrara, Fino Viola, sulla 15, sulla Cisa. E andavo sempre giù all'Olimpico, mi uscitava sempre a vedere le partite. Va bene, comunque no, io volevo dire, prima che cominciasse la Champions, l'altra settimana un vostro ascoltatore, un juventino come al solito, ha detto la Roma si fa vinto a Empoli per un'autorete, poi a Parma ha vinto tre minuti dalla fine, fa ora lo voglio vedere, ora prenderà due belli schiaffi, uno lo prende dal Manchester e uno lo prenderà da noi, quando, ecco. Ora volevo dire, il primo schiaffo noi non l'abbiamo preso gli schiaffi, abbiamo fatto una bellissima partita a Manchester, loro però l'hanno preso loro lo schiaffo in coppa, dico bene o dico male? Beh sì, io ribadisco, secondo me è uno schiaffetto, nel senso che non è stata un'umiliazione, ma è stata una partita secondo me equilibrata e alla fine sfortunata per il risultato. La Roma certamente ha dato un'impressione diversa, anche perché la Roma ha giocato una partita più aperta, quindi già di per sé più divertente, con più palle gol. La Roma mi è piaciuta più della Juve, sia ben chiaro, in settimana, però secondo me tutte e due hanno... E a me continua a piacere pochissimo Manchester City, ma comunque... Sì, però sono campione d'Inghilterra, volevo ricordarmi questa cosa. Ma anche a me non è una squadra che mi fa impazzire, anche come organizzazione. Insomma. L'avevamo anche sottolineato prima della partita, è una squadra comunque che dal punto di vista anche dei risultati in Europa questi anni ha fatto abbastanza poco. Non ha mai dato la sensazione di poter fare veramente il salto di qualità nelle partite testa a testa contro le grandi d'Europa. Però insomma, poi ci devi andare a Manchester, e fra l'altro il fatto di aver subito il gol subito e di aver subito saputo reagire, secondo me un'ulteriore dimostrazione di forza. Sarà pareggione non lo so proprio, no, ma sensazione non ne ho. Potrebbe essere una grande partita, sì, oppure potrebbe essere anche una schifezza totale. Sì. No, veramente devo dire che non ho grandi sensazioni in un senso o nell'altro. Lo Juventus Stadium secondo me è un fattore, è un fattore indiscutibile. Insomma, la Juve ha vinto 19 partite su 19 l'anno scorso e non può essere un caso. È una squadra che in questo stadio costruisce grandi imprese e diciamo i precedenti degli ultimi anni della Roma allo Juventus Stadium sono drammatici. Ma di converso, la Roma potrebbe essere matura per questo tipo di impresa. Certo. tutti i segnali vanno nella direzione di una squadra, la Roma, più consapevole e con più personalità rispetto agli anni scorsi. È un grande ennesimo test di maturità. E poi c'è anche di contro, secondo me, la reazione della Juve, perché Allegri, nonostante le 5 vittorie su 5, 6 con il Malmo, poi alla fine perde una partita, secondo me, lo dico per la nona volta, comunque con delle attenuanti per un episodio, e non da poco, esatto. non poco esatto, non quindi poco. Probabilmente insomma anche la Juve dovrà switchare, dovrà resettare nella testa. Comunque noi stiamo, faccio notare che noi stiamo ancora aspettando il caffè da prima, sì, no, cioè, nessuno ha raccolto questo invito. Io ho mangiato un gelatino. Sì, Giuseppe, provincia di Monza, buongiorno Giuseppe. Giuseppe. Otto. Giuseppe non è prontissimo, da Monza era dura portarci un paio di caffè, anche sì, abbastanza, chiudiamo. Abbastanza complicato. Piantanita, che momento, posso fare un momento a Marcord? Sì, dato che siete qui a Genova, ci ricorda Pagina 200 su Twitter, oggi sono 9 anni senza il grande, certo, Franco Scoglio. Hai detto benissimo, anzi me l'ero anche segnato, volevo parlare. Beh, Scoglio è stato uno di quei personaggi veramente leggendari. Ecco, io in questi giorni ho parlato con tante persone della puntata dell'altro giorno di Ferrero, insomma del momento anche del siparietto fra Zeman e Mughini. Poi alla fine esiste un calcio giocato ed esiste un calcio parlato. Il calcio parlato è bello quasi come il calcio giocato e vive di grandi personaggi, di grandi fenomeni anche mediatici, non c'è niente di male nel dirlo. Scoglio era sicuramente fra questi, era un filosofo, era un poeta, era un uomo eccezionale, era un po' ombroso, è stato un buon allenatore, in certi momenti anche un ottimo allenatore, insomma è uno di quei personaggi che hanno un'immagine, ma che dietro a questa immagine c'è anche una sostanza di un certo tipo che li rende, come direbbe lui, non è stato un personaggio ad minchiam. No, esatto. Lui direbbe, esatto, perdomo. Senti, sentiamo l'ultimo. Mio cane gioca meglio di però. Questa l'ha detta Bosco, però. Esatto. Ma gli scambi tra i due in quegli anni lì erano eccezionali. Convocati. Dunque, stavamo parlando della partitissima di domenica che si gioca alle 6 del pomeriggio e abbiamo in linea il signor Capuano, che domenica avrà un'ora in più, dalle 17 alle 20, proprio per rendere il giusto omaggio alla partitissima. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, ma l'hai detto a Pier? Cosa? Che c'è un'ora in più domenica. Ma glielo sto dicendo adesso. Ma me l'hai detto tu, certo. Stamattina, Radio Verità. Stamattina. Il mio telefono prendeva poco, stranamente, ero in un garage. Stavo partendo da Torino. Ma difatti la grande novità di domenica, Carlo, non è tanto che facciamo un'ora in più, quindi dalle 17 alle 20, uh-huh, e quindi tutti ci possono telefonare perché guardano la partita insieme a noi. Però la vera novità è che Piera ha giurato che sarà in onda con noi da un telefono fisso. Capito? Quindi non ci saranno. Perché la domenica tu sei fortunato, tu ce l'hai in studio, ogni tanto ce l'hai il telefono fisso. Noi la domenica lo peschiamo sempre in giro per gli stadi, no? Sì. Quindi siamo condannati. Invece domenica ha giurato che per l'occasione, che è speciale, usa un telefono fisso 17:20. Bisogna vedere dov'è il telefono fisso, se è in cima al Monte Rosa, poi ne parliamo. No, è a Cologno Monzese. Tra l'altro, mare splendido. Cosa commenti domenica? Faccio Milan-Chievo domani. Fai Milan-Chievo domani. Milan-Chievo, vabbè, uno fisso, no? Beh, penso di sì. Cioè, se non finisce uno fisso, Pippo ha un problema. Ecco. Io penso che Milan vincerà domani. Credo che sia ampiamente favorito. Credo però che debba dare delle risposte importanti. Ha avuto tutta la settimana per lavorare, forse anche sulla condizione fisica. Nelle ultime partite abbiamo visto sempre un Milan intermittente, capace di partire bene come si è visto a Cesena, ma di finire male, oppure al contrario, come è successo ad Empoli, di partire malissimo e poi recuperare soltanto in corsa. Serve una costanza di rendimento nei 90 minuti. Il Chievo sta avendo parecchi problemi, al di là delle squadre di Napoli della seconda giornata, però mi sembra insomma una squadra un po' fragile in questa fase. Diciamo che se non vince questa, il Milan insomma poi può aprirsi davvero una crisi di governo. Anche insomma, se presto, però io credo che andrà così. Tu non hai sensazioni su Juventus Roma? Capuano le ha? Io? Ma ho la sensazione che sarà profondamente diversa da quella dell'anno scorso, anche se c'è l'effetto dello Juventus Stadium, però ho la sensazione che questa Juve sia diversa da quella di Conte, che quindi azzannerà meno alla gola l'avversario di turno, che in questo caso è la Roma, ma negli anni precedenti di Conte è stato una volta al Napoli, cioè quelli che arrivavano lì a ottobre-novembre sulla carta erano gli avversari per la lotta per lo scudetto e uscivano fortemente ridimensionati al di là del risultato da Torino. Ho l'impressione che questa sia una Juve diversa e ho l'impressione, non lo so, così una sensazione a pelle, poi mi sbaglio, per carità, ho la sensazione che noi domenica sera assisteremo a qualcosa che proietterà la Roma in una dimensione diversa. Non necessariamente una vittoria, non necessariamente una vittoria, basta la prestazione. Beh, però insomma dici che non perde in pratica. Non lo so, io dico che non perde, io dico che già l'anno scorso la Roma fece un calcio meraviglioso, se non ricordo male, nella prima mezz'ora a Torino, però poi venne travolta dalla Juve di Conte. Mi dà l'impressione che questa Juve, quella di Allegri, sia meno feroce di quella di Conte e quindi questo di domenica sia un passaggio particolare e la Roma sia attrezzata per superarlo. Però è una sensazione a pelle, Pier. Poi voglio ricordare che l'ultima volta che tu hai detto uno fisso, era venerdì scorso, parlavi di Inter-Cagliari, quindi... Beh, abbiamo detto tutti uno fisso, ma adesso, Cagliari è l'unico, il capro espiatorio, dietro direi la stessa cosa, non ho detto uno fisso, ora che ci penso, io ho detto avremo una grande prestazione del Cagliari, vogliamo fare la schedina? Come è andata la settimana scorsa? Non lo so, ma allora Verona-Cagliari, vai, devo detto io Verona-Cagliari, ti dico uno. Sì. Verona-Cagliari, sì. Milan-Chievo 1. Ma Milan-Chievo 1, dai, è troppo facile. Troppo va, perfetto. Milan non ha più speranze dopo queste parole. Empoli-Palermo. Empoli-Palermo, ma sempre io devo dirtelo. Empoli-Palermo finisce 0-1, gol di Rigoni. No, io dico pari. Io 1. Lazio-Sassuolo. Lazio facile. Sì, uno. Aspetta, Sassuolo, hai ragione. Grande Sassuolo, grande Sassuolo, andremo. Due. Voi che fate, ragazzi? In trasferta? Avete la testa del tifoso del Sassuolo? Oppure... Sì, arriviamo lì. Sul culo nero verde. Dopo aver visto domani, non abbiamo problemi. Fare la doppia trasferta. Andiamo a Pescara domani con l'Entella e poi col Sassuolo domenica. Parma-Genoa. È fatta. Parma-Genoa, Cassano contro il Genoa. Parma-Genoa. 1-1. Pareggiano. Samp-Atalanta X 1 2 1 sì, Samp-Atalanta mi sa di okay. Di buccia di banana. E forza Sampdoria! Come fa Ferrero? Volo basso. Udinese-Cesena vince l'Udinese. Guarda, come segna di Natale, ma arrivo a dirti una cosa. Finisce 1-0 col Juventus di Natale. Roma, vince a Roma, per me 2. Vince a Roma? Come sì. Per me la Juve, per te X. Non lo so, io dico che per me vince la Roma, dai, buttiamola lì. Va bene, quindi 1-1 e 2-2. Fiorentina-Inter vince la Fiorentina 2-1. Vince l'Inter 1-0. Napoli-Torino 20-45. Vince 2-1 il Napoli. Vince 2-1 il Napoli, segnano, guarda, dico, segna Mertens, poi pareggia. È l'ora del bagno, dobbiamo andare. Andiamo, si sta alzando il vento. Il mare, il bagno mare, certo, si sta alzando il vento, Fate la tua risata, mi vede tutti seri. Ciao Giovanni Capuano, domenica dalle 5 alle 8. Ciao Gippardo. Ciao. Franco Pettini, nostro dottore. Michele Previato qui con Davide Ciocia. Milano, non mi ricordo più chi c'è, ma io ringrazio. 15 anni. Auguri Radio 24. L'hashtag è? Auguri Radio 24. Vabbè, l'originalità fa hashtag. Difficile. Auguri Radio 24. Ciao. Ciao. Io sono le cose, le faccio. Volo basso e schivo al sasso. La palla si è mossa. No. Si è mossa. Devo assegnarmi una penalità. No, no, non lo faccia, la prego, non lo faccia. Solo io e lei l'abbiamo visto. E io non lo dirò ad anima viva, lo giuro sul mio onore. Non lo saprà mai nessuno, lo giuro. Ci devi dire di non farlo, Becker. È solo una stupida regola che non significa niente. È una scelta del signor Giunardi. Si ritiene che una palla si sia mossa quando lascia la sua posizione originaria anche di poco, ma non se semplicemente oscilla tornando poi nella sua posizione di origine. È in un'altra posizione? Può esserne certo? A volte una palla vibra e poi torna al suo posto, Giunardi. Convocati.